La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Buon sabato e buon cinema a tutti. Franco D'Assisi in studio per La Rosa Purpurea, il nostro settimanale su tutto il cinema che c'è qui su Radio 24. Settimana che segna in qualche modo il ritorno alla normalità, fra virgolette, cinematografica del weekend, con 8 nuovi film, con i primi titoli anche di una certa importanza, e soprattutto settimana che introduce all'inizio della Mostra del Cinema di Venezia, che arriverà il 31 agosto, quindi fra pochi giorni avremo modo di parlarne durante questa nostra trasmissione, di presentare un po' quelli che sono le linee guida del Festival di Venezia numero 73. Prima però, come sempre, spinge l'attualità cinematografica, di cui ci occupiamo con Boris Sollazzo, che saluto. Ciao Boris. Buon pomeriggio Franco, a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, dicevamo, settimana molto ricca, 8 nuove pellicole nelle sale. Noi vogliamo cominciare da un film che sicuramente, come dire, ha una cinematografia di grande tradizione, di grande qualità anche negli ultimi anni alle spalle. Parlo del cinema argentino. Un regista come Pablo Trapero, che è uno dei registi più interessanti, anche più particolari di quella scena, e che racconta una storia che potrebbe essere una storia nostra, potrebbe essere una storia italiana. Argentina, inizio anni 80, una famiglia nel paesino di San Isidro vive con, come dire, una certa tranquillità e un certo benessere, ma si rivela essere una sorta di clan camorristico, mafioso, criminale. E infatti il titolo di questo film è El Clan. I piedi, Alex. Aiuta tua madre, è molto stanca. Ora vado. Quando mangiamo? Mamma sta preparando. Che aspetti, Alex? Tranquillo, è il pranzo. Il Clan, una storia che racconta di un patriarca, che è il gran capo, il burattinaio di questa famiglia, di un figlio maggiore, star del rugby, che però di fatto è quello che adesca le vittime dei rapimenti, dei rampolli dell'alta società. Una famiglia nella quale qualcuno a un certo punto si ribella a queste regole non scritte e cerca di uscire un po' dal coro. Boris, diceva, una storia, questa di Trapero, questa di El Clan, che è un film molto interessante, che potrebbe tranquillamente essere una storia nostra. Io ho citato la criminalità organizzata, mi viene in mente un po' anche l'Anonima Sequestri. Ma sì, assolutamente, volendo fare una battuta di humor nero, questo è un fatto vero quello che racconta Trapero, ed è il caso Puccio. Noi abbiamo avuto il caso Pacciani. Ora, indipendentemente dalle risultanze di processi o meno, sappiamo che quel caso fu tacciato anche di una serie di possibili coperture politiche e non solo, che avesse permesso, insomma, a uno o più serial killer di agire indisturbato in una certa località, in certe località. Ecco, il caso Puccio è molto simile, è drammaticamente vero perché è drammaticamente esistito, e probabilmente questa storia vera ha anche schiacciato, ma nel senso buono, Pablo Trapero. Pablo Trapero è un cineasta tra i migliori della Nouvelle Vague sudamericana, quella dei Larrain per intenderci, ma non solo, però aveva sempre fino adesso percorso uno stile, una grammatica cinematografica più evocativa, non quella del cinema civile. Qui incredibilmente invece cambia quasi stile e ci racconta una storia vera, una storia, un noir incredibile. Una storia, se vogliamo, in qualche modo anche alla Silenzio degli Innocenti, con la differenza che qui, e qui viene un'altra casualità molto particolare, cioè quella che ogni tanto fa raggruppare alla distribuzione italiana tanti film per temi nella stessa settimana. Questa è sicuramente la settimana delle tribù familiari, le più disparate. Questa chiaramente la più terribile. C'è un uomo che è legato ai servizi segreti durante la dittatura argentina, che aiuta i servizi segreti e in cambio ne ha una copertura per i suoi loschi traffici. Cosa sono i suoi loschi traffici? Sequestri, come hai detto tu, di rampolli di altre famiglie, sequestri più o meno lampo, li chiude in cantina, chiede degli esosi riscatti che quasi sempre ottiene. In questa economia malata lui piano piano, man mano che i figli maschi crescono, li coinvolge. Alla fine uno fugge, l'altro ci prova, Uno, appunto, come hai detto tu, è un divo del rugby che continua ad andare a patti con la propria coscienza. Ecco, la forza di Trapero non è solo portarci a una storia che, di cui dovremmo sapere la fine con comunque la stessa suspense, cioè giocare con il genere in maniera straordinaria, ma è anche farci entrare in questa famiglia malata, farci entrare in quella cantina, ma anche farci entrare pochi metri sopra in quella cucina dove tutto sembra perfetto, dove il quadro familiare della media borghesia argentina che cerca il grande salto magari con il figlio sportivo si racconta una storia che non è quella vera anche di chi non vuole scoprirla, e la porta fino alle estreme conseguenze, cioè il finale ci racconterà che cosa è successo e anche quanto può essere ingiusta la giustizia, che a un certo punto si sveglia molto tardivamente a drammi già avvenuti e probabilmente a politica non più così potente, e che quindi si dimostra forse persino più vigliacca di chi non aveva voluto vedere. Ecco, faccio i miei applausi a Pablo Trapero, perché non era facile, soprattutto per lui, fare un film così, e alla fine racconta una storia che probabilmente tutti dovevamo conoscere, e però la racconta nella maniera più cinematografica possibile, lasciatemi dire, con almeno un paio d'attori, cioè i due protagonisti, davvero straordinari. Le ripeto la somma da consegnare. $1,000,000 in biglietti da 100. Mi dà molta sicurezza averti vicino in questi momenti, figlio mio. Papà lo ha fatto per noi, Alex. Quanto tempo pensi che passerà prima che lo prendano? La tua libertà o la tua condanna dipendono da me. Se cado io, cadiamo tutti. Guillermo Francella, Peter Lanzani, i due attori citati da Boris Sollazzo, protagonisti di El Clan, la prima pellicola che abbiamo voluto presentare qui in questa puntata della Rosa Purpurea, fra le novità in sala che sono ben 8 in questo weekend, che dovranno a livello di classifica lottare con armi chiaramente diverse, spesso impari, con il successo che sta diventando abbastanza clamoroso di Suicide Squad. Pensate che Suicide Squad, di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata e l'abbiamo anche recensito in maniera positiva, sta ottenendo un successo forse fuori dalle aspettative in Italia per un film uscito praticamente a Ferragosto. Siamo a 4.663.000 euro di incasso all'altezza della scorsa domenica, quindi senza gli incassi ancora di questa settimana e del prossimo weekend, e un passaparola che sta funzionando molto. Boris, forse un successo al di là delle previsioni? Ma un successo al di là delle previsioni forse nel momento in cui ci siamo fidati troppo della critica cinematografica, quella diciamo orientata, quella che voleva insomma creare un caso. A mio parere quella Margot Robbie e quel tipo di racconto, con tutti i suoi difetti, era fatto per piacere a un pubblico, e secondo me era fatto per piacere a un pubblico assetato di cinema come quello estivo, perché poi continuo a pensare che quella della stagione estiva come una stagione morta per il cinema sia una falsità. C'è tanto, ci sono tanti spettatori che hanno voglia di vedere film che li incuriosiscono, quindi anzi credo, e su questo dovrebbero riflettere i distributori e gli esercenti, che Suicide Squad non avrebbe mai avuto così tanto successo se non fosse uscito esattamente in quella data. In un'altra data forse avrebbe trovato un pubblico più esigente che si sarebbe divertito di meno. In questa data ha trovato un pubblico che probabilmente aveva bisogno di un grande prodotto cinematografico, anche con una grande produzione, e ha trovato proprio in questa data anche il suo successo commerciale. Quindi secondo me è un elemento, potrebbe essere un case history molto molto interessante. Assolutamente, proprio per questo te lo chiedevo, perché questo dimostra che insomma quando c'è prodotto anche ad agosto, anche a Ferragosto, la gente al cinema ci va, e questa potrebbe essere un caso di scuola da studiare nei prossimi convegni del settore. Sentiamo come vanno le cose sulle strade del rientro invece, perché di gente dalle ferie ne sta rientrando tanta in queste ore. Poi torniamo insieme per tuffarci in un secondo blocco che ci racconta un po' di cinema francese che è arrivato nelle sale in questo weekend. La rosa purpurea. Avanti Stefanie, in piedi, è ora. Dai tesoro, alzati dal letto. Lo sai che chi dorme non piglia pesci. Ma che ore sono? 6 in punto. Vado da Mario il pescivendolo, ti serve qualcosa? Sì, un lavoro, grazie. Oh, se vuoi, domando a lui. Ho già qualcosa per lei. Allora, il lavoro consiste nel distribuire volantini con i roller. Aspetti, no. Stamattina un archeologo ha avuto la stessa identica reazione. Coi roller? Coi roller? Ah, no. E allora, quella che avete sentito è una clip dal film Torno da mia madre, che ci introduce a una sezione della nostra trasmissione dedicata al cinema francese, che arriva con due film parecchio diversi, ma insomma, che condividono quantomeno un'atmosfera in questa settimana. Torno da mia madre, dicevamo, commedia pura proprio, che mette di fronte lo spettatore a una eventualità. Cosa succede se nel mezzo del cammin di nostra vita ci ritroviamo a tornare da mamma a vivere dopo un matrimonio magari fallito e magari per un problema di indigenza momentanea legata a un lavoro perso. Purtroppo, come dire, un paio di situazioni che si verificano molto spesso nella nostra società. Tornare a vivere con la mamma a 40 anni non è più come quando si era bambini, non lo è assolutamente. Molte libertà che ritenevamo acquisite non sono più quelle e soprattutto se di fronte vediamo una persona che abbiamo visto con gli occhi di bambino e che rivediamo con occhi irrimediabilmente diversi, una persona diversa, ed è quello che succede a Stéphanie, la protagonista di questo film, quando arriva appunto nella casa materna. Boris, il cinema francese ha la capacità di, come dire, schematizzare molto la commedia, cioè di regalarci dei personaggi in qualche modo, se non archetipi, sicuramente simbolici, molto simbolici della nostra società. Lo ha fatto molto spesso negli ultimi anni, con quale risultato in termini di risate, che poi sono l'effetto della commedia in questo caso? Ecco, per quanto riguarda Torno a mia madre, non sono convinto che i risultati siano di altissimo livello. Devo dire che sono di più alto livello sicuramente le riflessioni a cui induce, ma che il film stesso poi non approfondisce, purtroppo, ed è questo forse il suo più grande difetto. Tu prima dicevi tornare a 40 anni dai genitori è complicato, anche perché hai acquisito determinate libertà. Tornare a 40 anni dai genitori è complicato anche perché i genitori hanno acquisito determinate libertà, e questa per esempio è una degli interrogativi molto interessanti che c'è intorno alla mia madre, che vengono lasciati esattamente nello stesso momento in cui vengono toccati. Questo perché? Perché esattamente come dicevi tu, con la riflessione che dicevi tu, c'è uno schematismo ormai estremo e secondo me abbastanza sterile del cinema francese nel dividere ossessivamente non solo la commedia ma anche i generi della commedia in tanti piccoli sottogeneri che possono avere un loro valore commerciale. Cioè c'è la commedia familiare come Torno da mia madre, c'è la commedia sociale come Quasi amici e via dicendo. In questo caso però, se proprio schema si vuole seguire, bisogna seguire lo schema di molto cinema francese, che quando si rivolge alla famiglia, quando cerca la famiglia, quando va a vedere le stranezze della famiglia, va un po' verso, per intenderci, il Winterberg style, cioè la ferocia con cui poi si va a scarnificare tutte le contraddizioni familiari, ovviamente alla francese, quindi magari con maggiore ironia che sarcasmo, con più perfidia che ferocia, però insomma quello è la situazione. Invece qua ci troviamo di fronte a un regista che sceglie la vena della malinconia, sceglie la vena anche della delicatezza, della dolcezza, che però non riesce a rendere in una situazione del genere, perché come dici tu poi una commedia si giudica dalle risate o almeno dai sorrisi, e quella vena malinconica, quella vena di dolcezza mal si confà alle stranezze che invece ci ritroviamo a trovare in questa famiglia. Ed è un peccato perché ci sono anche delle attrici, penso alla mia, Josiane Balesco, che sarebbero state molto adatte. Ecco, mi sembra in tutte le sue fasi, in tutti i suoi atti, sono sostanzialmente tre atti, una grande occasione persa Donna a mia madre, o forse anche una piccola occasione persa, perché poi ormai ne stiamo vedendo veramente troppe di queste commedie tutte uguali. Allora ascolta, ti chiedono soltanto un indirizzo email. Non ce l'hai, immagino. Ok, adesso lo creiamo. Poi fai un A con un cerchietto, sì, va bene. Gmail. Che cosa? Mail. No, Gmail, gmail.com. Punto? Come punto? Come punto, brava. Ah, con la P allora. Mm. Ma non devi scrivere punto, devi solo farlo, così. Mm. Contenta? Comma. Come? Comma. Ma lo fai apposta. Tu hai detto come? Come cosa? Come niente, scrivilo e basta. Non non ho capito nulla. Generazione confronto in torno da mia madre. Hai fatto bene, Boris, a sottolineare, ed è vero, lo scopo della commedia deve essere il sorriso più che la risata. Quello è scopo del film più apertamente comico. Dicevo prima di un'atmosfera che condivide questo film con l'altro film radicalmente diverso francese che arriva in questo weekend, che si chiama Malout, un film in costume ambientato nel 1910 nel nord della Francia, un film che racconta di sparizioni misteriose, di un ispettore che indaga, di una serie di personaggi grotteschi che popolano questo film. Sembrerebbe tutto diverso, ma l'aspirazione del cinema francese, ecco perché parlavo di quello, è comunque quella sempre di provare a intrattenere con il suo cinema, come prova a fare anche un regista che è un habitué dei festival, come il regista appunto di Malout, che è Bruno Dumont. Che felicità ogni volta che torniamo su questa costa! Oh, guardate, laggiù ci sono dei pescatori di mitili! Quanto puzza quella carretta! Ah, com'è pittoresca! Il glicine! È cresciuto di 2 metri almeno. Tutto aumenta, Andrei, tutto aumenta. Come sta, mio fratellino, come sta? Non mi abituerò mai alla bellezza di questo paesaggio, mai. Però ci vieni tutti gli anni. E tu come ti chiami? Malout! Che significa Malout? È passato di tempo da quel 1999 in cui Bruno Dumont si imponeva all'attenzione del mondo con l'Humanité. Boris, questo Malout è un'incursione in una époque non so quanto belle della storia francese, però con i crismi del noir grottesco. Sì, assolutamente. Questo invece è un esperimento molto, molto interessante, secondo me, perché Dumont era abituato, anche se con momenti di surrealtà pura, a toni molto drammatici, toni estremamente seri, insomma, al massimo svicolava nel melodramma. Qui invece in certi momenti addirittura hai l'impressione, e lo dico con tutto il rispetto perché sono due autori che amo, sembra di stare in un film in costume tra Ferie d'Agosto e Commissario Locatto, perché c'è un'indagine abbastanza improbabile, abbastanza divertente, in cui sostanzialmente lo spettatore e anche alcuni protagonisti scoprono tutti i segreti che gli inquirenti non riescono a scoprire. In questo sembra molto il Banfi di quel film di Risi, sottovalutato, e dall'altra ci sono due famiglie divise dalla classe sociale, che sono due tribù molto particolari e che ricordano un po' quelle di Ferie d'Agosto. Adesso sono 3 film chiaramente completamente diversi, ma che in qualche modo pescano nello stesso humus. Qual è il pregio di Dumont? Dumont ha proprio il pregio che quel precedente film francese, Donna mia madre, non aveva. Lui calca la mano lì dove deve andare, sa che è una commedia, sa che deve rischiare, che non può permettersi di accontentare tutti, e decide deliberatamente di scrivere e di portare avanti una sceneggiatura anche molto estrema nella sua parte surreale, e di costringere, credo con grande soddisfazione, gli attori a recitare sopra le righe. Pazzesco Fabrice Luchini, di cui ogni tanto bisogna riconoscere che addirittura si intravede anche il piacere di fare quel tipo di personaggio. Ecco, se gli dobbiamo dare una bacchettata, è quel modo mastroiannesco di bearsi del personaggio che aveva, senza però la capacità di dissimulare che aveva Mastroianni, una binoche a cui non sembra vero di poter fare questo tipo di ruolo molto estremo, e che insomma lo porta appunto all'estremo, proprio perché non ha mai avuto questa occasione, e così via dicendo. Insomma, ci sono tanti attori che si divertono. È un film per attori, ma è un film anche per un regista che vuole provarsi in un'altra situazione, diverte, non ha tanta intenzione di dimostrare chissà che cosa, anche se il personaggio di Malout è metaforico, è potente, ha il suo significato anche, insomma, nel voler leggere altri 2 o 3 piani di lettura. Però il pregio di Dumont è fare del cinema, divertirsi con il mezzo cinema, capirlo e usarlo al meglio, avendo, va detto, anche un cast straordinario che può permettergli di divertire, ma anche di divertirsi e di far divertire loro. Quindi è il massimo della situazione. Volendo fare un paragone sportivo, quel tipo di Brasile che magari non pensa a segnare, ma che dà spettacolo. Quando non ce lo ricordiamo più, perché è da anni che non c'è più quel tipo di Brasile, ma per chi è un po' più vecchio se lo ricorderà. Una vicenda alquanto misteriosa, senza cadaveri. André! Tu non hai paura di sparire? Tu ci proteggerai, non è vero, Malut? Non ci capisco niente. Della strana gente. Un dito di Whis, chi avrà? Una ninfomane, delle nudiste e delle sparizioni. In tutta questa storia c'è la mano della provvidenza. Quelli che vengono salvati e gli altri. Malut! Malut! Malut! E come diceva papà, succeda quel che succeda. E allora Malut, l'altra proposta francese di questo fine settimana. Fra poco parleremo dell'era glaciale, il ritorno dell'era glaciale, e lo faremo con un ospite d'eccezione, Gianluca Fratellini, animatore italiano che ha lavorato proprio all'era glaciale 5. Prima però un altro grande ritorno dopo l'estate, il nostro DVD Game, che da anni vi regala i migliori film della stagione, e non solo della stagione, in Blu-ray e DVD. Basta essere preparati e riconoscere questo film. Ero convinta di averti liberato dalla tua debolezza. Ero convinta di averti reso forte. Come mi hai liberato dalla debolezza? Cosa hai fatto? Avete già riconosciuto il film? Come sempre il nostro gioco è molto semplice. Ascoltate la nostra traccia misteriosa e se avete indovinato scrivete una mail alla rosapurpurea@radio24.it con il titolo del film e il vostro indirizzo. E i primi due, più veloci e più bravi dei nostri ascoltatori, riceveranno poi, li nomineremo la prossima settimana, riceveranno poi il film a casa. Però vi faremo ascoltare un'altra traccia fra qualche minuto. Adesso linea alla regia. Torniamo fra poco, parliamo dell'era glaciale in rotta di collisione e di un altro film molto molto atteso di questo fine settimana che si intitola Il diritto di uccidere. La rosa purpurea. Terza parte della Rosa Purpurea, come promesso ancora insieme con il cinema da vedere in sala, la settimana, il weekend delle nuove uscite, praticamente del riinizio della stagione cinematografica. Fra poco l'era glaciale 5 con l'intervista a Gianluca Fratellini, prima però un altro film di cui vogliamo parlarvi con Boris Sollazzo, si intitola Il diritto di uccidere, lo dirige Gavin Hood, nel cast Helen Mirren, Aaron Paul e Alan Rickman, anche in questo caso un cast molto ricco per raccontare una storia che prende come sfondo la guerra per provare a risolvere o quantomeno a presentare un dilemma etico. Abdullah Al-Hadi, insieme a sua moglie, di nazionalità britannica. I servizi segreti li hanno collegati ai recenti attacchi kamikaze in Kenya. Come possiamo attaccare via terra se entrano in quel quartiere? È controllato da Al-Shabaab, sarebbe un massacro. Siamo in grado di colpire un bersaglio con considerevole precisione. Sono qui per assistere a una cattura, non per pianificare un assassinio. Ha l'autorizzazione a colpire il bersaglio. Hai mai lanciato un Hellfire? No. La storia di un colonnello, il colonnello Power, che guida una squadra antiterrorismo in territorio keniano, servendosi di droni e quindi avendo una sorta di occhio a distanza che guida l'arma e punta l'arma verso gli obiettivi, un giorno ci si rende conto di essere di fronte a una famiglia, a una bambina che potrebbe finire tra le vittime, una bambina innocente. Nessuno vuole prendersi una decisione, una responsabilità nella war room londinese, e allora esiste in questo caso il diritto di dare l'ok a pigiare il grilletto di quel drone, o invece bisogna fare un passo indietro? Questo è un po' il tema, il dilemma etico, come dicevo, che sposa e come dire accompagna questo film, Boris, con tra l'altro anche una sorta di corrispettivo nella scrittura e nella recitazione del film. Cioè non è solo un pretesto per raccontare una storia di azione e di guerra, ma c'è molto dentro i personaggi questo dilemma. Ma assolutamente sì, è quasi in questo senso una pièce teatrale shakespeariana, in cui all'inizio dell'atto, del primo atto, tu ti rendi conto che vive il dilemma che sarà la natura e il motore della pièce, vive in ogni personaggio. vive nei suoi dialoghi, ma vive proprio nella sua sofferenza di essere al mondo. E in questo senso Gavin Hood è un regista molto interessante, perché fa un cinema antichissimo, un cinema civile e un cinema degli interrogativi morali, un cinema etico che davvero non eravamo più abituati a vedere, no? Cioè, da una parte mette Bergman nella profondità di ciò che si chiede, della profondità con cui mette il vicino il dilemma della sicurezza a tutti i costi e quello del rispetto della vita a tutti i costi. Lo aveva già fatto in Rendition e adesso lo rifà con Il diritto di uccidere, in fondo lo aveva fatto anche con Il mio nome è Zozzi, e dall'altra parte quel cinema civile che noi abbiamo conosciuto per esempio in Italia con Giuseppe Ferrara, che racconta le cose in maniera assolutamente secca, storie reali o verosimili che non hanno bisogno di nessun arzigogolo, di nessun infiorettatura. Poi qui lui si ritrova con molti più mezzi e con un cast pazzesco, perché se hai Helen Mirren e Alan Rickman che ti sostengono il film, hai davvero poco bisogno come regista di dare chissà quale direzione, specialmente se in fondo è così semplice la strada che vuoi prendere, anche se complessa, cioè la volontà di mettere tutti, spettatore compreso, di fronte a un dilemma vitale e letale allo stesso tempo. Il film è molto interessante, soprattutto per come coinvolge lo spettatore. Cinematograficamente forse è esile, forse non è così forte e paga un finale che non doveva essere così dichiarato e dichiarativo, però è davvero uno di quei film che vanno visti, perché a mio parere la cosa più bella non è tanto l'esperienza della visione quanto quella della discussione subito dopo la sala, che un po' l'abbiamo perso come abitudine, quindi ve lo consiglio comunque. Boris, grazie di essere stato con noi anche questa settimana, ci sentiamo fra 7 giorni. Grazie a te, caro Franco. Mi piace ricordare Alan Rickman, che purtroppo ci ha lasciato proprio dopo Il diritto di uccidere. A voi non posso che dire buona settimana e buon cinema. E allora giochiamo ancora insieme con la seconda traccia del nostro film misterioso di oggi. Tu hai detto che sei qualcosa di intermedio tra questo mondo e lo specchio. Ti ho riportato io qui. Ora sei avvinta a me! E allora, se riconoscete il film, se volete provare a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film, che sveleremo fra poco per quanto riguarda il titolo del film, ma che premieremo, diciamo così, con il nostro podio ideale la prossima settimana, ebbene, scrivete alla Rosa Purpurea, @radio24.it, titolo del film e vostro indirizzo per provare appunto a ricevere questo film. A questo punto noi andiamo avanti e, come annunciato, è il momento di parlare dell'era glaciale 5. E che conto te, quello è un problema? Eccolo lì! Un gigantesco asteroide sta precipitando verso di noi! Non temere! La chiave è in questa tavola! Andiamo sul luogo della collisione, cerchiamo indizi e decidiamo se evacuare! Chi è così stupido da pensare di poter evacuare? Crash Eddy, pronti ad evacuare! In bagno! Voi cercate di salvare la pelle e noi voliamo verso le stelle, sicuri come quegli uccelli! Una casualità! Poveri noi. E stavolta davvero poveri noi, con l'era glaciale 5, dove il pericolo arriva dai meteoriti, dalla galassia che si sta infrangendo sulla Terra. Sempre grande divertimento con le avventure di questa strampalata comunità di animali preistorici che si muove cercando di salvaguardare il proprio futuro da quello che poi inevitabilmente sarebbe successo, ma soprattutto anche quella di una sorta di scoiattolo preistorico alle prese eternamente con una ghianda che si chiama Scrat, che tutti conoscete, che è diventato un beniamino del pubblico ormai da parecchi anni e che questa volta ha un papà animatore che è un signore, un ragazzo italiano, che si chiama Gianluca Fratellini ed è che è in collegamento con noi. Ciao Gianluca! Ciao Franco, ciao, grazie, saluto a tutti, ciao! Dalla Puglia con furore, potremmo dire, per Gianluca Fratellini, ormai affermato animatore di alcuni dei titoli più belli degli ultimi anni, nei team di lavoro di Rio, tanto per intenderci, di Hotel Transilvania, adesso appunto dell'era glaciale 5, ne parleremo fra poco, anche del prossimo disneyano attesissimo, La Bella e la Bestia. Però Gianluca, il tuo lavoro su questo film è stato proprio su Scrat, che è uno dei beniamini del pubblico. Sì, Sì, Scrat come tanti altri personaggi del film, quindi mi sono davvero divertito a mettere mano, diciamo, su questo personaggio che ho sempre amato e visto sin dal 2002, l'anno in cui uscì il primo film. Quindi, diciamo, metterci proprio le mani sulle ossa di questo personaggio per poterlo deformare, animare, e era quasi un sogno che si è avverato, quindi sì, mi ha fatto davvero grande orgoglio poterci davvero lavorare con questo film e animarlo a mia maniera, diciamo. Ecco, cos'è la tua maniera? Perché poi è anche interessante capire che la mano di un animatore fa cambiare un po' il personaggio. Qual è stato il tuo approccio a questo lavoro e a questo personaggio? Sì, esatto. In realtà noi abbiamo la libertà, quindi, di creare i movimenti e di interpretare la voce degli attori che si registrano prima dell'animazione, e quindi abbiamo poi la possibilità di interpretare i movimenti e di metterci qualcosa di personale, di nostro, di qualcosa che, non so, ci può interessare, oppure qualcosa di familiare come movimento, come espressione facciale. Quindi ci ispiriamo alle persone che ci sono più vicine, oppure a personaggi famosi di film, attori, quindi abbiamo parecchia libertà in questo senso. Ecco, e quando pensavi a Scrat, quando ti hanno affidato questo lavoro, Gianluca, a quale personaggio hai pensato? A chi si avvicina di più secondo te? Beh, Scrat è l'unico personaggio che ha libertà di espressione 360 gradi, quindi abbiamo davvero libertà di disegnare le pose facciali, di distruggere quasi le mesh del personaggio, di davvero creare qualcosa che immaginiamo e magari che non esiste, quindi lì c'è davvero piena libertà. Ecco, la scena che molti, almeno qua in Italia, hanno visto nei promo del film è quella in cui Scrat, con la famosa ghianda sempre sotto braccio, passa in mezzo alle forche caudine di una porta automatica che si chiude e si apre da tutte le parti. Che scena è stata quella? Quella è davvero una sequenza, è davvero la più, forse la più divertente di Scrat, perché è il momento in cui cerca di rincorrere la ghianda anche nello spazio, e quindi ci sono state alcune scene che hanno tagliato purtroppo per problemi tecnici, però diciamo che bene o male sono riusciti a raccontare bene la sequenza. Era davvero complicata perché c'era il sistema solare, quindi per esempio tutta la scena del sistema solare ho dovuto ricrearla, e quindi muovere anche i pianeti, il personaggio che si schianta sul vetro, poi c'è la parte in cui passa dalla tuta fino al tubo, fino all'astronave, quindi anche quella è davvero comica. Lì hai attinto, Gianluca, anche un po' a tanto immaginario di fantascienza, insomma, vista nei tuoi anni da spettatore di cinema, perché c'è un po' dietro l'accelerazione delle particelle, c'è dentro un po' tutto quel mondo lì. Sì, il Big Bang, tutto quanto. Sì, c'è davvero da delirare, diciamo. Quando si fanno questi film non bisogna ragionarci troppo, ma davvero lasciare spazio alla fantasia. Anche perché Scrat è un personaggio che intanto è il fil rouge di tutta la serie, di tutta la saga. Siamo arrivati al quinto episodio, hai detto tu 2002, vuol dire 14 anni ormai sulle scene, ed è quello un po' che ci dice che la storia continua, che il tempo è una cosa, come dire, veramente talmente dilatata che un personaggio come lui può inseguire per sempre questa ghianda, no? Sì, guarda, il personaggio di Scrat può essere magari, non so, può essere considerato, non troppo considerato, ma in realtà è un messaggio abbastanza forte, che è quello di mai lasciare andare l'obiettivo, diciamo, mai smettere di rincorrere i propri sogni, i propri obiettivi. Quindi anche se è l'unico personaggio che non parla, è quello che forse comunica di più ciò che ognuno di noi prova, magari, no? Quindi è davvero interessante. E poi la voce del personaggio è sempre stata quella del regista, di Chris Wedge, del primo Ice Age, quindi lui si è divertito sempre a fare i primi suoni di verso di Scrat, ecco perché anche il logo dell'azienda. Certo, assolutamente. Ecco, da Scrat a Belle, potremmo dire, quasi chiamarlo la Belle e la Bestia davvero, hai lavorato al nuovo imminente Disney, penso uno dei film più attesi della stagione, perché ci sono almeno tre generazioni di bambine e di ragazzine che stanno aspettando quel film in carne e ossa che è stato il cartone animato della loro infanzia. Cosa hai fatto nella Bella e la Bestia? E anche lì ti sei occupato di un personaggio? Allora, sicuramente non la Bella, perché la Bella è Emma Watson e la fa davvero bene, e davvero in gamba. Mi sono occupato di Lumière e tutti i personaggi dell'originale, del film originale in 3D, quindi guardaroba, Lumière, c'è anche l'orologio, c'è anche Plumette, che sarebbe in italiano sarebbe la spolverina. Beh, sono assolutamente i personaggi forse più simpatici, iconici, quelli a cui i bambini sono più affezionati, sono quelli che cantano Stia con noi, no? Esatto, quindi abbiamo dovuto rispettare comunque la loro personalità del film originale, però ovviamente non posso raccontare molto, ma è stato comunque attualizzato parecchio per rendere il tutto omogeneo con il girato live, ecco, con Emma Watson. Però una cosa ce la puoi dire, Gianluca, ritroveranno gli spettatori esattamente quello che succedeva nel cartone animato, quelle canzoni, quelle frasi, quelle parole, cioè il film è quello, sì, ma stavolta in live action. Forse anche fatto più in grande, ecco, esagerato in maniera positiva. Allora noi ti aspettiamo qui alla Rosa Purpurea per parlarci anche della Bella e la Bestia quando potrai farlo. Per il momento davvero un grande abbraccio, siamo orgogliosi di avere come amico di questa trasmissione e anche come animatore italiano che ci fa onore nel mondo, Gianluca Fratellini. Un abbraccio da Londra, quindi saluti a tutti quanti, va bene? Arrivederci. Ciao. E allora Gianluca Fratellini alla Rosa Purpurea, adesso viabilità, fra poco torniamo per parlare di Venezia. Venezia 73 alle porte, la mostra del cinema, ne parleremo con Adriano Aiello di Film TV, e quindi restate con la Rosa Purpurea. Eccoci qua, la Rosa Purpurea, quarta parte, e come dicevamo siamo arrivati al momento di parlare della Mostra del Cinema di Venezia, che comincia il 31 agosto per chiudersi poi il 10 settembre, 10 giorni come sempre di grande cinema, anzi 11 giorni di grande cinema, nei quali il Lido di Venezia diventa il centro del mondo cinematografico, un concorso, tante sezioni collaterali, le grandi facce, i volti noti del cinema mondiale, ma anche quelli tutti da scoprire. Noi, per cercare di, come dire, organizzarci un attimo nella mappa ideale dei Venezia 73, ci colleghiamo con Adriano Aiello, collega e inviato del settimanale Film TV, che da tanti anni è partner un po' della nostra trasmissione, a Venezia, appunto, pronto a partire quasi, manca ancora qualche giorno. Salutiamo Adriano Aiello. Ciao Adriano. Buon pomeriggio e un saluto a tutti i radioascoltatori. Ciao, allora, sei pronto? Valigie fatte? Tutto... Ancora no, sono un po' in ritardo, ancora devo organizzarmi. Perché poi a Venezia non è che serva tanta roba, basta avere un paio di cambi e te la cavi, insomma. Sì, perché... dipende anche dal tempo, certe volte siamo stati un po' funestari dalla pioggia. Assolutamente, si comincia alle 8 e si finisce a 1 di notte, quindi insomma è così. Però, voglio dire, è un gran bel lavoro, un gran bel mestiere, e dicono, Adriano, e comincio da qui un po' la nostra analisi, i commenti che sono stati fatti subito dopo la presentazione, la conferenza stampa nello scorso mese di luglio, hanno parlato quasi unanimemente di una delle più belle edizioni del Festival di Venezia sulla carta degli ultimi 20 anni. Anche tu la pensi così? Beh, sicuramente è un festival che accontenta un po' tutti, perché quello era diventato un po' un problema, perché accontenta sia chi crede che i festival siano, diciamo, il terreno naturale per il cinema di ricerca e la scoperta di nuovi talenti, sia chi ama vedere i nuovi film dei grandi autori affermati, però spesso si lamenta che vengono premiati magari film invisibili che non vengono distribuiti in sala, sia infine chi rimprovera a Venezia negli ultimi anni di aver smarrito un po' di appeal internazionale, magari ai danni del Festival di Toronto. Sono, secondo me, riusciti a mettere insieme tutte queste anime, che insomma è una sfida abbastanza importante, però sulla carta mi sembra che tutto sia funzionale per, appunto, accontentare un po' tutti. Allora, andiamo subito un po' dentro questa mostra del cinema numero 73, e ti chiedo, Adriano, quali sono i tre film più attesi, proprio tuoi a livello personale? Ah, ok, addio, a livello personale ce ne sono parecchi, forse potremmo già partire dall'apertura, da La La Land, che è una delle opere più attese del festival, probabilmente anche uno dei momenti più glamour della mostra, visto che i protagonisti sono Ryan Gosling ed Emma Stone, che sono in questo caso interpreti di un musical che è un omaggio un po' all'epoca d'oro del genere. Lei è un'aspirante attrice che fa la cameriera a Hollywood, lui è un jazzista costretto a sbarcare il lunario suonando i locali di terzo ordine, facendo il piano bar, e dirige poi Damien Chazelle, che è già stato l'acclamato regista di Whiplash, il film, diciamo, già dedicato ampiamente alla musica. Oltre a questi, io personalmente non perderei la serata speciale dedicata a Zombie di Giorgio Romero, di cui a Venezia ci sarà un restauro, ma curiosamente non la versione originale di Romero, ma in quella italiana che fu supervisionata ai tempi da Dario Argento, con la musica dei Goblin, insomma una versione che a me compreso piace anche più di quella originale. Il film poi sarà presentato da regista danese Nicolas Winding Refn, che sappiamo tutti essere un grande amante del cinema genere italiano e comunque dell'horror e dei film di zombie. Poi c'è anche l'ambizioso documentario di Terrence Malick, Voyage of Time, che è addirittura un film sulla storia del cosmo, insomma le cose proprio alla Malick molto. Sì, lui la prende sempre larga, diciamo così. Sì, no? Sì, dice che è 40 anni che lavora a questo progetto, è musicato da Ennio Morricone, e sinceramente trovo che il suo cinema ultimamente ha perso qualcosa, forse è diventato troppo prolifico rispetto al passato in cui non faceva quasi un film ogni 10-15 anni. Però sicuramente, visto in una grande sala, penso sia un'esperienza visiva incredibile, insomma, quindi me lo sono immaginato così. Adriano, entriamo un po' nel concorso invece. Che cosa peschiamo? Quali sono i film, come dire, che possono segnare un po' di più la rotta di questo 73esimo concorso? Allora, partendo dal fatto che abbiamo già citato un film del concorso, perché La La Land apre il festival, ma è anche apre il concorso, io su tutti ti direi il film di Pablo Larraín, Jackie, quello nel quale Natalie Portman interpreta Jacqueline Kennedy nei 4 giorni precedenti e immediatamente successivi alla morte del marito del presidente, soprattutto perché, conoscendo il talento del regista cileno, le aspettative sono giustamente altissime, specie dopo il recente film biografico dedicato a Pablo Neruda, che è passato a Cannes e aspettiamo ancora in sala, sta per arrivare e potrebbero anche, insomma, essere quasi sovrapposti. Però insomma lo sguardo del regista cileno, il rapporto tra fiction, biografia e repertorio sicuramente sarà stimolante. Poi c'è grande attesa anche per The Light Between Oceans, che è il nuovo melò di Derek Chanfrance, che dopo Blue Valentine e Come il Tuono, questa volta adatta all'omonimo romanzo di Steadman, ambientato in questa occasione in un'isola australiana negli anni successivi alla Prima Guerra Mondiale. Qui troviamo un guardiano del faro, che è Tom, interpretato da Michael Fassbender, e sua moglie Isabel, che invece è interpretata da Alicia Vikander. Sono una coppia in crisi soprattutto perché è stata provata da 2 aborti e un bambino nato morto, e improvvisamente dal mare arriva una barca, la deriva con un morto e una neonata, e diciamo che dopo una lunga riflessione della coppia decidono di crescere la neonata e di chiamarla Lucy. Poi io direi che sia molto interessante anche Arrival di Denis Villeneuve, regista canadese noto per Sicario, Prisoners, Enemy, uno degli autori comunque più acclamati degli ultimi anni e più stimolanti. In questo caso si confronta con un'opera di fantascienza ricca di interrogativi morali, perché il soggetto è abbastanza classico, parliamo di un atterraggio di navicella viene sulla Terra, virato però a una questione proprio di comprensione se questo atterraggio degli alieni sia dovuto a motivi, diciamo, pacifici o no, e tanto che l'esercito americano chiama un'esperta di linguistica nel film interpretato da Amy Adams per capire se le intenzioni di questi invasori appunto quali siano. Poi c'è Forest Whitaker nei panni del colonnello Weber, comunque credo sia un film piuttosto interessante. Ecco Adriano, gli italiani, le ultime edizioni di Cannes e di Locarno, cioè gli ultimi 2 festival, grandi festival internazionali, hanno visto poco o niente, diciamo, l'Italia protagonista. Venezia ovviamente no, Venezia ovviamente è il teatro principale a livello internazionale per il nostro cinema, direi a partire da Sorrentino. Esattamente, a partire da Sorrentino, che però, diciamo, come sappiamo, viene lì con una serie Young Pope, la serie dedicata al primo Papa americano, di cui sarà presentato in anteprima i 2 primi episodi. La serie poi passerà su Sky a ottobre ed è interpretata da Jude Law nei panni di questo Papa americano. Sicuramente ci sarà, insomma, lo sguardo piuttosto anticonvenzionale sorrentino, e anche una scelta particolare quella appunto di portare un progetto del genere a Venezia, ma quest'anno anche in concorso penso il cinema italiano a Venezia è piuttosto interessante, piuttosto coraggioso. Penso a Piuma di Rohan Johnson, che è una commedia soprattutto su un tema abbastanza classico, anche questo, c'è una coppia molto giovane che deve gestire una gravidanza in attesa con tutti i problemi del caso, ma lo sguardo, diciamo, leggiadro, semplice di Rohan Johnson è abbastanza anomalo secondo me in un concorso che di solito ha portato autori, diciamo, più legati all'idea classica del cinema d'autore italiano. Ma penso anche e soprattutto a Spira Mirabilis, il documentario di Massimo D'Anolfi e Martina Parenti, che è un, in pratica un documentario di taglio sperimentale, umanista, racconta quattro storie di immortalità girate in quattro luoghi differenti del mondo. È qualcosa anche difficile da raccontare nella sinossi, però gli autori sono un'apprezzata coppia di registi che sono anche una coppia nella vita, sono molti presenti nei festival, tanto nel 2015, se ricordo bene, hanno realizzato da poco L'infinita fabbrica del Duomo e hanno vinto anche il premio alla giuria a Torino, forse con Il Castello nel 2012. Comunque diciamo che è un festival in cui il cinema italiano mi sembra piuttosto fuori dalle tracce, anche questo insomma. Ecco, per chiudere Adriano, chiaramente un festival significa anche glamour, significa anche facce, personaggi, idoli del pubblico cinematografico. Il red carpet di Venezia si illuminerà come sempre e come in tutte le edizioni. Di quali volti quest'anno? Ah, quest'anno sono tantissimi, proprio perché come dicevo all'inizio è una edizione molto molto internazionale. Sin dall'apertura dei battenti avremo già la coppia protagonista di La La Land, appunto Ryan Gosling e Emma Stone, poi c'è Jude Law che è il pontefice appunto nella serie di Sorrentino, Natalie Portman che porta due film, perché oltre ad essere Jacqueline Kennedy in Jackie viene anche un road movie che si chiama Planetarium, poi c'è Amy Adams che ha due film in concorso, perché c'è Arrival di Villeneuve che abbiamo già citato, ma c'è anche Animali Notturni, un altro film molto importante, la seconda regia di Tom Ford, dove recita anche Jake Gyllenhaal e anche lui sarà presente al festival. E poi mi sembra ci sia anche Chris Pratt, che è il protagonista del remake di Magnifici 7, e c'è anche Andrew Garfield, medico militare e primo obiettore di coscienza in Oxford Ridge, che ritorna alla regia di Mel Gibson. Insomma, ci saranno molti molti volti internazionali che faranno insomma piacere per chi è molto interessato a questo aspetto anche del festival. E allora grazie ad Adriano Aiello, buon lavoro alla Mostra del Cinema di Venezia, e chissà, magari ci sentiamo anche nelle prossime puntate per raccontare un po' quello che dalla carta di cui abbiamo parlato questa settimana diventa celluloide, diventa grande schermo, diventa visione veneziana. Ciao Adriano. Ciao, un saluto a tutti. Si mettono a rubare anche i ragazzini adesso. Non sono un ragazzino, sono un uomo sposato. Togliti di mezzo prima che ti spappoli il cervello, uomo sposato. Non farlo, uomo sposato. Ringrazia Dio di non essere già morto. La mia famiglia sta morendo di fame. Lei lo sa. Questo non significa che devi rubare. Lei sembra uno dei nostri. Lavora per loro. Lo decido io che cosa sono. Non ho intenzione di uccidere ragazzini che si pisciano ancora sotto. Avanti, levati di mezzo. Maledetto traditore! E noi vogliamo chiudere la nostra puntata della Rosa Purpurea con questa clip dei Cancelli del Cielo di Michael Cimino, intanto per l'omaggio che sempre sarà dato da questa trasmissione a uno dei più grandi registi di tutti i tempi, scomparso recentemente, ma soprattutto perché questo film è riuscito nelle sale italiane il 25 agosto con una versione restaurata, tra l'altro dallo stesso Michael Cimino, la famosa Director's Cut di 216 minuti restaurata nel 2012. E non è l'unico film, il 25 agosto è uscito nelle sale nuovamente anche Nel Corso del Tempo di Wim Wenders, sempre in versione restaurata. Ci piace che questa nuova stagione cinematografica italiana cominci proprio nel segno anche non solo del buon cinema nuovo, ma anche del buon, grande, vecchio cinema riportato dove deve stare il cinema, ovvero sul grande schermo. Grazie per averci seguito. Vi ricordo solo che il film con cui abbiamo giocato questa settimana era Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio. Settimana prossima vi sveleremo anche chi ha vinto il Blu-ray di questo film. Un saluto da Franco D'Assisti, ci sentiamo la prossima settimana.